c'è dentro di noi uno sforzo che ereditiamo dalla cultura, dall'ambiente, già dalla scuola, di voler essere come tutti gli altri. C'è dentro di noi uno sforzo che ereditiamo dalla cultura, dall'ambiente, già dalla scuola, di voler essere come tutti gli altri. Ma c'è qualcosa dentro di noi che si oppone. Più diventa forte la nostra forza decisionista, che ci chiede di assomigliare a tutti gli altri, di diventare come delle fotocopie, e più è forte la ribellione. Panico in questo senso è l'adeguamento, è il fatto che noi ci adeguiamo a degli obblighi che ci diamo, ed è come se chi soffre di panico vivesse costantemente, continuamente in una specie di cristalleria dove sta attento a muoversi, si muove con cautela, come se nella vita di tutti i giorni si muovesse cercando di far contenti tutti, di mettere le cose a posto, di sparire come ha fatto la persona di cui parlavo prima, di adeguarsi alle cene con gli amici. È come se la vita si fosse normalizzata, normizzata, come se la creatività, il gioco, il piacere fossero andati lentamente retrocedendo. Quindi il panico in qualche modo arriva a ricordarci che c'è qualcosa dentro di noi disposto a soffocarci, a morire, piuttosto che adeguarci alla vita che stiamo vivendo. Non è il panico che ci soffoca, siamo noi che ci stiamo soffocando. Siamo noi che in qualche modo abbiamo costruito un'identità in cui vogliamo essere non soltanto qualcosa che non ci appartiene, ma che appartiene soltanto a tutti gli altri, che non ha più niente di nostro. È come se a un certo punto della vita noi stabilissimo che deve vincere il progetto che gli altri hanno fatto per noi. Cioè deve vincere il modello culturale in cui siamo inseriti. Ed è come se chi soffre di panico vivesse costantemente, continuamente in una specie di cristalleria dove sta attento a muoversi, si muove con cautela. Come se nella vita di tutti i giorni si muovesse cercando di far contenti tutti, di mettere le cose a posto, di sparire. È come se a un certo punto della vita noi stabilissimo che deve vincere il progetto che gli altri hanno fatto per noi. Panico in qualche modo arriva a ricordarci che c'è qualcosa dentro di noi disposto a soffocarci, a morire, piuttosto che adeguarci alla vita che stiamo vivendo. Come se chi soffre di panico vivesse costantemente, continuamente in una specie di cristalleria dove sta attento a muoversi, si muove con cautela, come se nella vita di tutti i giorni si muovesse cercando di far contenti tutti, cercando di far contenti tutti, cercando di far contenti tutti, cercando di far contenti tutti, cercando di far contenti tutti, cercando di far contenti tutti, cercando di far contenti tutti, cercando di far contenti tutti.